pulizia. È tutto un gioco questa vita. C'è chi dice che ogni lascia è persa, ma non pensa. È una tortura che ti stritura il cervello, fratello. Non bisogna aggrapparsi a scuse o finti rintocchi, perché si vede dai tuoi occhi che sono specchi quelli in cui ti aggrappi. E ora che stai qui scappi. Ormai ho smesso di credere al gioco dell'amore. Resto nell'ossessione, non c'è contrapposizione. Il mio cuore è più dolore, freddo da ghiaccio, anti freddo dentro di me. Perché non posso di cani, scene dai tagli, comiche alla desica. Ma non ne vale mica giocare a fondo sta partita. Quante volte l'ho detto, non mi sono illuso, ma alla fine ci sono caduto come la soglia di un dirupo. Tu cazzo pretendi, questi pop elettroshock, ma non ti riprendi. Ho sempre testa dura, il mio cuore è chiuso da una serratura. Hai le chiavi, ma hai cambiato manifattura. Con me il mio messaggio, mi uccidi con puttini per te. Io di passaggio come soldatini per bambini. E che non è che mi prendi in giro in fondo, ma che mi prendi in giro come un giro, giro tondo, giro tondo. Andare avanti, tu sei più forte delle donne. Vai, sei avanti. Meglio delle donne. Noi ti saremo sempre vicini. Mai e poi mai saremo sempre con te. Donna, di decidere chi sei. Addio, amico. Addio. Yeah, è inutile che fai finti sorrisi. Hai preso tutto di me. Mancano solo i vestiti, i sentimenti investiti. Travolti, pensieri sconvolti. È tutto un gioco, ma ho finito i soldi. No, non posso crederci. Ho ferite stabili, ma in un ospedale giocano a fare i medici. Tu vuoi illudermi più? Riesci ad uccidermi giù, è più giù. Vi prego, aiutatemi. Mi vedi morire, te la ridi sotto i baffi. Mi tendi una mano, ma per prendermi a schiaffi. Mi aggrappo con le unghie in un pozzo senza fondo. Ma è la pace con me stesso che io voglio in fondo. Giochi col destino, ma il destino è beffardo. Bastardo, dimmi se vuoi me o un altro dentro me. È tutto vuoto, sento puzza l'istantio. Ma è ora di preoccuparti, perché adesso gioco io. E adesso il tocco finale. Ah!